Chi è? Salve, buonasera. Buonasera. Sì, sono venuto a portare un po' di rime. Le rime, aspetta un attimo. Sì, sì. Oh, hai ordinato le rime, pezzo di fango. Bene. Non me le mandano. Sto cazzo di rime. Scusa. Damignane, Godeco MC. Damignane, Godeco MC. 13 anni che sono qui tra i cattivi odori. Speravo almeno che sto rap mi tirasse fuori. Ma già tanto se possiedo una TV a colori. È una troia che mi scopo, che mi dice spero che muori. Caro diario, vomito un dizionario. Sono la prima cosa che butti nell'inventario. Ario, cos'è non so ma suona bene. Ho un ego tanto grande che il cosmo non lo contiene. Beh, Bendesi, religione alternativa. Dove Gesù è una donna per giunta ancora viva. Stiamo aspettando la seconda venuta. Tanta roba, tanta manna per chi se le fu- tutta la volta qui vicino era tutta campagna. Ora invece c'è il cemento che manco si magna. Tutti poveri e contenti in uno stato disumano. Ma mi piangono miseria con l'iPhone in mano. Se i miei testi sono soldi allora sono ricco. La metà li spendo in 3 secondi per lo scitto. L'altra mezza per lo studio di registrazione. Se la mia tipa fosse viva sai che distrazione. Uso parole come un'arma tagliente. Visto che non sono soldi e sono nulla tenente. Ma hanno detto cosa in tasca, ho detto nulla tenente. Sono il capo del niente ma lo stile è bollente. Romantico come una cena senza posate. Vestito con le pezze al culo, voi che cazzo guardate? Io vivo senza pena tutte le giornate malate. Sono tutte falsificate, le assenze giustificate. E questo è un altro pezzo che non dice nulla. Dammi una bolla e il numero della tua bella. E dai, che minorenne è la puttana che è in sella. Ancora peggio se poi scopro che è tua sorella. Piovono telefoni che curano i mali. Certi modelli fanno pure danti inconcezionali. Tutti sti raggi ci trasformano in strani animali. Basta andare in giro in centro per fare un safari. Anima di fango, cervello di pongo. Dico tutto, dico niente, lo suono col bongo. Mi dicono che siete dei cone. Quando si lancia, non pensa che sia Dio, gli lancia la lancia. Anima di fango, cervello di pongo. Dico tutto, dico niente, lo suono col bongo. E dicono che siete del cone quando si lancia. Non pensa che sia Dio, gli lancia la lancia. Dio, dammi il 5 che dopo mi sdraio. Chi t'ha visto ha detto a tutti che sei fatto d'acciaio. O se ha fatto un canapaio, ho trovato la chiave. Secondo me non era Dio, era un'astronave. Allora corri, ragazzo laggiù. C'è dei MC che fa rap, che cazzo vuoi di più? Vieni con tutta la crew e se i miei soci li invogli. Basta un battito di ciglia, salto al portafogli. Fast and furious, curious, furia cieca. Nella testa un cavatappi come giù alla cuna seca. Cavalco le battute come le onde del mare. Io destinato alla fine di un cavaliere templare. Spremo le meningi, dei cone spingi. Lascio tutti gli incapaci, fermi come sfingi. Vendo il succo del discorso dentro al quale tu intingi. La tua penna quando scrivi la vita che fingi. Ehi, ma ti pare? La viene a raccontare. Mi viene da vomitare se penso di votare. E mezzo al nostro sbocco ci puoi pure nuotare. Hai sbagliato questa volta, non c'è niente da rubare. JKO, affari di family. Posseduti dal rap come dal diavolo Emily. Fame di contanti per niente contenti. Lanci le lance e noi le fermiamo coi denti. Anima di fango, cervello di pongo. Dico tutto, dico niente, lo suono col bongo. Gli dicono che siete dei cone quando si lancia. Non pensa che sia Dio, gli lancia la lancia. Anima di fango, cervello di pongo. Dico tutto, dico niente, lo suono col bongo. Gli dicono che siete dei cone quando si lancia. Non pensa che sia Dio, gli lancia la lancia. Dio. Anima di fango, cervello di pongo. Dico tutto, dico niente, lo suono col bongo. Gli dicono che siete dei cone quando si lancia. Non pensa che sia Dio, gli lancia la lancia. Anima di fango, cervello di pongo. Dico tutto, dico niente, lo suono col bongo. L'indigeno che sente decone quando si lancia. Non pensa che sia Dio, gli lancia la lancia.